Con i suoi 3 milioni di abitanti e le sue 19 zone industriali, Smirne è la terza città della Turchia per popolazione e la seconda per concentrazione dell'economia nazionale dopo Istanbul. Se vincerà l'edizione 2015 dell'Expo, ha promesso investimenti per 20 miliardi di dollari e un progetto firmato dal prestigioso studio tedesco Albert Speer & Company. Fiorente centro turistico, anche per la vicinanza alla parte più bella della costa turca sull'Egeo, sede di importanti industrie, soprattutto tessili e manifatturiere, Smirne si presenta con le sue 5 università e il suo porto, che nel 2007 ha gestito da solo un import per 12 milioni di dollari e un export per oltre 14 milioni di dollari. Se vincerà, il suo sindaco Aziz Kocaoğlu ha promesso un nuovo aeroporto da 50 milioni di passeggeri l'anno e una linea ferroviaria veloce che collegherà la perla dell'Egeo a Istanbul. Marta Ottaviani, GR24, Il Sole 24 Ore, Istanbul.